Vai Milan, combatti così, altro che zanzara. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, signori, 9-7 minuti e con Leonardo Manera. Oggi il buon Leonardo Manera non sarà con noi fisicamente, ma ci ha lasciato dei contributi che poi ascolteremo. Mando un grande abbraccio a Leonardo, che troveremo domani a questi microfoni con voi, non in video. Anzi, in video non sono neanche io per il momento, ma tra poco vedremo di attivare la questione. Intanto, eccomi qua, ho schiacciato il bottone. Vediamo un po', aspetta che sistemo il microfono, in video su Facebook, eh? Dovremmo andare, dovremmo farcela. Non so, se volete, forse sono anche in diretta video. Non è un bello spettacolo su Facebook, però ci sono. Allora, saluto Claudia Schiattone, ovviamente tantissimi auguri da subito. Per oggi abbiamo sentito che si assegna il primo trofeo della stagione. No, ma perché? Cioè, già trionfo della Juve, si sa, d'altronde hanno vinto in semifinale onestamente e in gran spolvero, senza rigori, contro il Milan, e sarà una passeggiata gloriosa verso la vittoria in Coppa Italia sul Napoli, sicuramente così. Auguri Claudia e a tutti i juventini e complimenti per questo primo successo stagionale, insieme a te, vicino, bravo, bravo Alpino in regia fa già partire gli applausi per la Juve, insieme a voi. Che strani animali che si aggirano così in redazione, ma non siamo sicuri che non portino il coronavirus, i gufi, non lo so. Va bene, insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, siamo qui in redazione per stare con voi, parliamo di tante cose oggi, soprattutto avremo un ospite importante, perché è il presidente di AstraZeneca Italia, per parlare del vaccino, è la società che sta lavorando sulle prime dosi di vaccino, vorremmo capire davvero tutto, ma avremo ospite anche Massimo Fini, amico, intellettuale, scrittore, sul tema della libertà, del razzismo, delle statue abbattute, parleremo di scuola, parleremo di donne con questa frase di Franca Leosini che fa arrabbiare: non toccatemi la Leosini, il mio mito. E allora possiamo partire, vai. Enthusiasm about the future. Allora, seguivo il dibattito molto interessante poco fa di Simone Spezia e Maria Latella, c'era anche Pietro Ichino che abbiamo sentito anche i nostri microfoni settimana scorsa e... Come dire, si parlava di dipendenti pubblici, non voglio entrare in questa diatriba, che poi mi scrivono i dipendenti pubblici arrabbiati, quelli che lavorano e sono la stragrande maggior parte, quelli che lavorano anche di più in questo periodo di chiusura. Registro solo la notiziola che ha dato Repubblica ieri con Antonio Fraschilla e oggi viene ripetuta dalla Verità, viene ripresa dalla Verità. Il 20% dei dipendenti della regione Sicilia è a casa per gli effetti della pandemia. Vengono pagati senza lavorare, questa è una stima. I motivi sono congedi, legge 104, per carità, sacrosanta, laddove sulla base di certificati veri. Le esenzioni consentite dalle norme previste per emergenza Covid, cioè non hanno il computer, non hanno il collegamento internet, oppure sono assegnati a mansioni tipo i portieri, gli autisti, che non possono svolgere. Ebbene, nonostante ciò, il 20% non va in ufficio, neppure lavora, ricevendo tuttavia lo stipendio pieno, pieno, pieno. Maledetti! Ehi, no, no, ecco. Vabbè. Lascia perdere, cioè diciamo che così ogni tanto parte questo urlo di battaglia. Così. Maledetti! Eccolo lì! Maledetti! Vabbè, devo dire che nessuno ha mai trovato la signora, credo fosse una signora che ha urlato dietro a un collegamento telefonico di Sky, credo, questo urlo di battaglia, che è diventato urlo di battaglia per molti italiani. Sentivo anche ieri Conte, mi ha colpito solo una citazione di un mese, il Premier Conte, Stati Generali, sentiamolo. Adesso stanno per arrivare, per dire, questo Recovery Fund, e quindi siamo chiamati a elaborare nell'ambito di questo piano di rilancio poi un più specifico recovery plan italiano. Ovviamente nell'ambito di questo, perché questo c'è tutto il programma dell'azione di governo di rilancio, all'interno di questo sì. poi andremo a individuare e presenteremo a settembre, un piano specifico di recovery. Ma come settembre? Ma perché, ecco, in tutto questo, in tutta questa dichiarazione, mi ha colpito la citazione a settembre. Ma perché a settembre? Siamo a giugno. Siamo al 17 di giugno. A settembre. Cioè mezzo giugno, luglio, agosto, sono tre mesi. A settembre, poi immagino a settembre inoltrato. Ecco, oggi quando Tito Boeri su Repubblica scrive i rinvii generano rinvii, parla di fase 1 del rilancio economico in cui è ancora il governo, cioè sì, viene annunciata l'ambiziosa riforma degli ammortizzatori sociali, c'è stato un decreto tappabuchi, lo definisce Tito Boeri. E poi i rinvii generano rinvii. Che cosa dicono? C'è il blocco dei licenziamenti fino a fine d'agosto. Dicono, beh, forse proroghiamo il blocco dei licenziamenti. Ho capito, ma allora proroghiamolo all'infinito e così nessuno perde il posto di lavoro. Ma è una finzione. Si crea artatamente una situazione che non è che si può prolungare. Ce lo spiegava proprio bene il professor Ichino nei giorni scorsi. Non è che si può prolungare all'infinito il blocco dei licenziamenti, cioè perché così crei una situazione. Anzi, Tito Boeri dice che bisognerebbe fare un grande piano invece di diffusione dei contratti a tempo determinato. So che questo argomento unito alla flessibilità fa magari innervosire qualcuno, ma questo è. Comunque, cari ascoltatori, io vorrei concentrarmi sul tema principale di cui voglio parlare. Il tema principale è quello del vaccino, perché oggi ci sono degli articoli anche interessanti a riguardo, nel senso che, eccolo qua, su Repubblica, il piano di Bruxelles per un vaccino europeo coinvolte le aziende, nel senso che Bruxelles annuncia con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen un piano da 2,7 miliardi per negoziare a nome dei governi dell'Unione una serie di accordi di prelazione con tutte le aziende impegnate nella corsa contro il Covid, ed è un piano che in qualche modo richiama anche il piano annunciato dal ministro della salute italiano Speranza insieme a quello della salute francese, tedesca e olandese, che hanno annunciato questo accordo con l'azienda importante del gruppo farmaceutico AstraZeneca per il vaccino in Italia. Allora, io sono contento, lo ringrazio. Abbiamo con noi il presidente di AstraZeneca Italia, Lorenzo Vittum. Buongiorno, buongiorno presidente, grazie di essere qui. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, è chiaro che poi entreremo nei dettagli, però tutti gli italiani si chiedono il quando. AstraZeneca sta elaborando quello che è il cosiddetto il candidato vaccino, si parla di fine settembre, prime dosi. Secondo me c'è troppo ottimismo perché ci sono delle fasi da superare, delle autorizzazioni. Ci può dire davvero se c'è una stima, la più precisa possibile in questo momento, di quando potrebbero esserci le prime dosi del vaccino che state studiando? Assolutamente, stiamo in questo momento facendo la sperimentazione clinica sull'ultima fase, tecnicamente si chiama la fase 3, che è, diciamo, una fase di efficacia su più di 10.000 volontari in Inghilterra. Prevediamo di concludere questa fase per la fine dell'estate e in parallelo stiamo costruendo catene di approvvigionamento che permettano di consegnare le dosi, le prime dosi già prima della fine dell'anno, quindi supponiamo nell'ultimo trimestre di quest'anno già di consegnare le prime dosi. Volevo però sottolineare che la sperimentazione ovviamente dobbiamo vedere se è positiva, quindi qualora sia positiva la sperimentazione clinica ci sarà il processo regolatorio e poi la consegna delle dosi. Questo sì, diciamo che entro la fine dell'anno, se tutto andrà bene, se supererete tutte le fasi, entro la fine dell'anno, ecco, diciamo, mettiamoci come Natale, come non tanto settembre, ma spostiamola un po' più in là di un paio di mesi. Senta, ha sentito il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen considera il vaccino un bene comune e non un bene di lusso. Ecco, ci spieghi come state lavorando voi, come vi rapportate, siete un'azienda farmaceutica e quindi c'è anche il tema del profitto di un'azienda su questo tema. Guardi, l'obiettivo di AstraZeneca è stato di avere un accesso, di dare un accesso al vaccino ampio, equo e senza alcun profitto durante questa fase di pandemia. L'annuncio che abbiamo fatto in Europa di 400 milioni di dosi segue una serie di annunci per un totale di 2 miliardi di dosi a consegnare durante i primi mesi del 2021. Quindi assolutamente noi ci impegniamo a che questo vaccino sia disponibile, ovviamente non solo in Europa, abbiamo degli accordi negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma abbiamo fatto anche un accordo di 1 miliardo di dosi di produzione in India per i paesi a medio e basso reddito. Sì. Quindi, se ho capito bene, voi avete annunciato che le dosi verranno vendute, verranno comprate, immagino, dalle istituzioni, dai governi europei, senza il sovraccarico del costo della proprietà intellettuale? Questo è il concetto? Assolutamente, assolutamente. Le posso dire che il vaccino costerà pochi euro, che sono i pochi euro necessari alla produzione, che è una produzione a larga scala. C'è già un'idea di prezzo, pochi euro cosa vuol dire? Meno di 10, sui 5, su... Guardi, pochi euro vuol dire pochi euro, nel senso quello che ha detto lei è, diciamo, direzionalmente corretto. Diciamo, entro sicuramente i 10 euro. Faccio una domanda brutale però, che cosa ci guadagna AstraZeneca? Certo, dal punto di vista dell'immagine, se tutto andasse bene, però è un'azienda farmaceutica, sa che su questo c'è grande critica, le aziende farmaceutiche speculano, le aziende come tutti vogliono fare dei profitti, sono delle aziende, quindi per creare posti di lavoro bisogna fare dei profitti, però è un tema molto sensibile. Allora, cosa ci guadagna AstraZeneca in questo procedimento? Guardi, in questo momento noi siamo molto concentrati questo sforzo gigantesco che stiamo facendo, tanto a livello di sperimentazione clinica come a livello di produzione. In questo momento ci sembrava la cosa giusta da fare, di essere il più rapidi possibili per arrivare rapidamente a consegnare le dosi di vaccino ai cittadini di tutto il mondo. Questa è la nostra focalizzazione in questo momento. Sì. Le chiedo questo, il professor Garattini, che è stato ospite qui varie volte, nell'ultima volta ci ha detto: guardate che l'Italia rischia di rimanere in coda sulla questione dei vaccini come investimenti, poi dopo saremo quelli che diremo siamo in ritardo. Cioè, faccio un esempio, in Germania, cari ascoltatori, il governo ha deciso di entrare con il 23% in un gioiello della farmaceutica, CureVac, perché è quel gioiello che voleva comprare Trump per dire mi accaparro il vaccino. La Germania come governo entrerà in questa società. Noi italiani ci stiamo muovendo per investire nella ricerca e poi quindi ottenere i vaccini, secondo lei, Presidente Vittu? Guardi, io credo che l'Italia ha avuto e sta avendo un ruolo assolutamente prioritario in questa come si chiama, corsa al vaccino. IRBM, che è un'azienda di Svizzera, sì, con la sua divisione di vaccini innovativi Advent, ha avuto un ruolo assolutamente fondamentale fin dalle prime fasi, collaborando con l'Università di Oxford per lo sviluppo del vaccino e mettere a punto la produzione delle dosi per la sperimentazione clinica. Attualmente IRBM è impegnata a produrre le dosi per la sperimentazione clinica che partirà anche in Brasile. In aggiunta a questo c'è un'altra azienda con sede in Italia che si occuperà di quello che tecnicamente si chiama l'infialamento, quindi ci sono due parti nel processo di produzione, una è la produzione di vaccino e l'altra è mettere il vaccino nelle fiale. Ecco, un'azienda che ha sede in Lazio con uno stabilimento di avanguardia farà la produzione. Un'altra volta l'Italia si conferma assolutamente in prima linea nella corsa a questo vaccino, sfruttando tutte le eccellenze che ha, tanto di ricerca come di produzione. No, io lo spero e voglio essere ottimista come lei, Presidente, perché AstraZeneca, chiaramente Italia, ma insomma sappiamo, è un'azienda britannica e anche svedese, nata da due colossi che si unirono 20 anni fa. Il lavoro è con l'Università di Oxford. Professor Garattini dice: ma è vero, l'IRBM è a Pomezia, ma è una multinazionale. Cioè, ci preserviamo con l'italianità, con quello che lei ha detto. Guardi, su molti giornali è apparso il concetto che questo è un vaccino italo-inglese. Io le posso confermare che IRBM ha avuto un ruolo assolutamente fondamentale grazie alla eccellenza che ha nella ricerca. Mm. Oggi c'è notizia sui giornali che proprio da Oxford si dice che c'è stato trovato un farmaco, uno steroide che nei casi di malati gravi sarebbe efficace. Ora sappiamo che farmaco e vaccino sono due cose diverse, perché il farmaco interviene quando la malattia è già in corso, il vaccino serve a prevenirla. Però qual è secondo lei davvero la prevenzione efficace, quindi vaccino, oppure ce la potremmo cavare anche coi farmaci contro questo coronavirus? Io credo che tutte e due siano importanti. Credo che questa pandemia è stata così tragica e ci ha insegnato che dobbiamo mettere in marcia tutte le misure possibili per prevenirla da un lato, ma anche da trattarla, in aggiunta a tutte le misure che il Ministro della Salute e tutte le regioni hanno messo in pratica. Io credo che dobbiamo mettere in campo tutto quello che possiamo mettere, il nostro impegno, per combattere questa pandemia che è stata così drammatica. Quindi dice, da un lato vaccino e anche farmaco. Quando sente, lei che è presidente di AstraZeneca Italia, quando sente, le sentirà tutte le varie i vari attacchi, non so, Bill Gates è stato accusato di voler diffondere i vaccini per controllare, non so neanche bene come, iniettandoci qualcosa nelle vene per cui controlleraci con una sorta di microchip tutti come dei robot, insomma lo sapete, voi siete a capo di un'azienda che subirà questo tipo di attacchi, di accuse, l'idea di voler speculare. Quando lei sente questo tipo di accuse, come reagisce, se vuole, personalmente o come rappresentante di un'azienda farmaceutica? Guardi, io le posso dire che noi dobbiamo fidarci di quello che l'autorità regolatoria decide. Ovviamente tutti gli studi clinici sono sotto il controllo molto stretto di tutte le autorità regolatorie del mondo, nel caso dell'Europa la EMA, nel caso dell'inglese l'MHRA, l'FDA americana, o diciamo tutte le aree del mondo ci sono autorità regolatorie. Credo che è importante fidarsi di quelli che sono i loro processi e le loro decisioni, che decidono appunto se un prodotto è sicuro e efficace da poter essere messo in commercio. Le posso dire che in AstraZeneca e le posso dire che in tutta l'industria farmaceutica siamo assolutamente focalizzati nella ricerca clinica per combattere e per risolvere i problemi di milioni di pazienti. Questo è quello con cui io mi alzo ogni mattina e cerco di lavorare durante tutto il giorno da anni. Allora, se è d'accordo, Presidente, ci sentiremo attorno alla fine dell'anno a questo punto, quando e se, si spera, tutte le fasi cliniche verranno passate e il candidato vaccino diventerà un vaccino, chissà, forse sarà il vostro, insomma, anche se ci sono tanti progetti in corso nel mondo. Intanto io la ringrazio, Presidente. Aspettiamo fiduciosi i risultati della sperimentazione, perché solo allora, se saranno positivi, questo accordo avrà pieno significato e la speranza di tornare alla normalità sarà concreta. Eh sì. Grazie a Lorenzo Vittum, presidente di AstraZeneca Italia. Avete sentito e letto su tutti i giornali questo accordo, di questa sperimentazione che riguarda la IRBM a Pomezia, dove si sta sviluppando il vaccino, in accordo con l'Università di Oxford, in accordo con AstraZeneca, con cui il governo italiano, il ministro della Salute e Speranza, ma insieme a quello francese, tedesco e olandese, hanno annunciato un accordo di partnership per investire in questo vaccino. Oggi Ursula von der Leyen annuncerà, pare, 2,7 miliardi messi sul piatto a nome dei governi dell'Unione, una serie di accordi di prelazione con le aziende, con tutte le aziende impegnate nella corsa alla creazione del vaccino contro il Covid. vedremo come ne usciremo. Certo, bisogna avere un pochino di pazienza, perché giustamente ci vogliono le sperimentazioni, le fasi da superare, il bollino finale, diciamo, per poi commercializzare un vaccino. Entro la fine dell'anno, se tutto andrà bene, abbiamo capito, le prime dosi per quel che riguarda questa sperimentazione. Allora, noi andiamo un attimo in pubblicità. 800 24 00 24, se volete intervenire. Scriveteci anche al 349 238 6666, WhatsApp, audio, SMS, mail a 100milan@radio24.it. Non cercate in video su Facebook Manera, oggi non c'è neanche al telefono, ma ci ha lasciato dei contributi, ma rientreremo, e con noi ci sarà Massimo Fini, giornalista e scrittore, per parlare anche di tutto il dibattito sulle statue, la libertà, l'attualità politica. Con Massimo Fini si può parlare di quello che si vuole, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Propongo di dare la precedenza al vaccino a tutti gli insegnanti, chi lo volesse, perché così finalmente torneranno a lavorare. So che il vostro conduttore non piace parlare di politica, però vogliamo dire che questo governo sembra quello Letta, Enrico Slitta. Milan, è il governo che è rimandato a settembre. Ok, dobbiamo fare più contratti a tempo determinato, ma sei mai andato a chiedere un prestito o un mutuo in banca con un contratto a tempo determinato? Ecco, ti sputano in un occhio. Ma infatti... sicuramente quello che Boeri dice, che su cui Ichino insiste da anni, è un cambio totale di prospettiva generale. Ci vorrebbero anni, ci vorrebbe forse un'altra cultura. Beh, devo dire, ecco subito quello che si scaglia contro gli insegnanti: non sono stato io, ma l'ascoltatore, perché poi gli insegnanti, giustamente, tutti quelli che lavorano, e sono sempre la stragrande maggioranza, anzi lavorano di più con questa didattica online, adesso mi scrive, verranno tutti arrabbiati, ma non l'ho detto io, l'ha detto il nostro ascoltatore. Qui siamo un porto franco in cui ci sono libere opinioni che si accavallano. Effettivamente, però, anch'io stamattina, quando ho letto di Conte che ha detto il piano a settembre, anch'io ho pensato subito a Enrico Slitta. Ricordate che spesso Enrico Letta, io lo chiamavo Enrico Slitta perché slittava tutto, cioè faremo, perché era un governo un pochino impantanato tra le varie correnti, e infatti poi si è visto come è finito serenamente quel governo. Enrico, stai sereno. Ma c'è Massimo Fini, come stai Massimo? Giornalista, scrittore, intellettuale, grande, eccoci qua, buongiorno. Ciao Alessandro, Massimo. Credevo che vecchio come sei fossi stato steso dal Covid, invece vedo che invece no, vedo e sento soprattutto te. Secondo me il Covid ti ha fatto bene, perché tenendoti in casa, no, dici, ma tanto chi se ne frega, Fini è già un po' un misantropo, sei un po' un misantropo. Vero, no? Vero, anzi, misogino e misantropo, ecco, misogino e misantropo, tutto ce l'è. Sì. Va bene, allora siamo qui. Non voglio entrare nella diatriba. Ho letto un articolo di Vittorio Feltri contro Massimo Fini. A parte che, se dovessi scegliere tra Vittorio Feltri e Massimo Fini, cioè voglio dire, non leggo neanche, ho già scelto. Non ma leggo neanche, attimo, ho già scelto. Dove sì. L'hai letto? Io non ne so niente. Feltri ieri ha detto che tu ti sei autoproclamato come il successore di Montanelli. Non è che mi sono proclamato, è che Letizia Moizzi, che è come si dice, è la nipote, quello che respirava gli umori di Montanelli, ha detto che Montanelli pensava che io fossi il suo erede. Vittorio Feltri ieri ha detto, ecco, Massimo Fini è uno di quei giornalisti, i giornalisti, dice, si dividono in due categorie, quelli che lavorano al Corriere e quelli che vorrebbero lavorarci, e Fini fa parte di questa categoria. Ma io al Corriere proprio non ci ho mai voluto lavorare, è un giornale che mi fa letteralmente schifo, perché è sempre stato filo governativo con tutti i governi, da quelli fascisti a tutti gli altri. Quindi un anarchico come Fini, pensate che uno così con l'animo un po' controcorrente. Vabbè, comunque ti sei perso questo articolo, ma poco male, ma chi se ne frega, cioè, era l'editoriale ieri di prima pagina di Feltri, lo recuperi. Però no, io ho chiamato Massimo Fini per capire cosa ne pensa in questo grande momento storico, devo dire storico, partito dall'America, America che tu spesso disprezzi, diciamolo francamente, sì. Però almeno apprezzi quello che sta succedendo in America dal punto di vista delle contestazioni, le ribellioni, certo, il movimento Black Lives Matter. L'America sì, ha abolito formalmente il razzismo, tra l'altro abbastanza di recente, ma è rimasto un paese profondamente razzista. Quindi queste rivolte sono più che giustificate, vanno ben oltre la persona di Trump, insomma. Vanno contro l'establishment americano nel suo complesso. Quindi il razzismo che esplode adesso, tu dici, o meglio le manifestazioni sono solo la punta di un iceberg che affonda nella storia mai risolta americana, insomma, sì. Ma come le vedi? Cioè, nel senso, possono anche incidere sulle elezioni, possono far cadere Trump? Sai, le elezioni americane è difficile capirle da là. Io credo che Trump vincerà, anche se il suo competitor Biden è una persona molto per bene, a differenza di altri. A me piace perché, per esempio, disse a suo tempo, era vice di Obama, dice: i talebani non sono dei terroristi, sono degli indipendentisti. Beh, mi è già sembrato una cosa. Ti è già sembrato simpatico. Sì, no, è uno che guarda un po' oltre, ecco. Sì, sì. Ci ricordiamo Massimo Fini, tra i vari libri ne ha scritto uno dedicato anche al Mullah Omar, alla storia, la vita del Mullah Omar. E quindi. Però Massimo, qui in Italia, cioè a un certo punto ce la si è presa con le statue. Cioè, secondo te è giusto abbattere la statua di Cristoforo Colombo? Perché... No, ma noi non possiamo. Non possiamo, non dobbiamo cancellare la storia, ogni statua vuol dire, significa qualcosa, ha un riferimento. Io non abbatterei nemmeno la statua di Hitler, vuol dire, non è che non c'è stato, c'è stato, quindi è veramente, questo è un vizio del tempo, cioè che si vuole abolire la storia che è passata. Croce diceva, o riscriverla. Croce diceva: la storia è il passato visto con gli occhi del presente, ok, però il presente deve anche avere l'intelligenza di uso questa bruttissima parola, ma non ne ho altre, di contestualizzare le cose, se no diventa tutta la storia umana diventa una storia criminale. Perché ti disprezzi la parola contestualizzare? Cioè, perché la usano tutti. Contestualizzare? Ah, ecco, solo per quello. E Montanelli? Ma adesso ce la devi raccontare questa storia, perché mi ha appassionato, non ho capito. Ma tu che un po' sei un anarchico, ma qualche guarda, gesto... ti racconto questa, sì. Questa cosa. Quando morì Montanelli, che aveva quella stanza sul Corriere. Ferruccio De Bortoli chiese un consiglio a Letizia Moizzi, chi poteva sostituirlo, e Letizia disse, Letizia vive e vede, si può controllare, disse: ma io sentendo mio zio, lo zio Indro, come la chiama lei, penso che a Montanelli avrebbe fatto piacere che fosse Massimo Fini. Ferruccio svenne. Poi quando rinvenne disse: ma lui ha un mucchio di querele, non era neanche vero, ma comunque Letizia gli disse: qualcuna ne avrei avuta, insomma. Beh, adesso ne ho più sinistre. Comunque sì. Gli disse: beh, ma il Corriere non si spaventerà per queste cose. E Ferruccio dice: sì, però Fini è un anarchico. E Letizia: ecco. Sì, ma anche lo zio Indro in fondo era un anarchico. Infatti così, un anarchico conservatore lui, ma sostanzialmente un anarchico. Quindi finì così la questione, insomma, diciamo che secondo Indro Montanelli potevi essere successore, però ma vabbè, quindi tu, pur essendo anarchico, la statua di Montanelli non la imbratteresti, non scriveresti sopra stupratore, non scriveresti razzista. Ma no, ma anche perché sai, di Montanelli si potrebbe parlare in modo un po' più serio, cioè ci sono tre Montanelli, Montanelli giornalista, Montanelli scrittore e Montanelli persona. Sul Montanelli scrittore non vedo che cosa si possa dire, ha insegnato a tutti noi diciamo non solo l'eleganza delle cose, ma la chiarezza, no? Montanelli spesso metteva nei suoi pezzi dei toscanismi che tu non conoscevi, ma il contesto era tale che tu capivi, insomma, la chiarezza soprattutto, e poi anche quella capacità di dare un pugno, allo stomaco al lettore. Questo l'aveva preso anche dal suo arcinemico Malaparte. Mi ricordo un bellissimo pezzo su Anna Magnani, ritratto di Anna Magnani, che comincia così: Anna Magnani non era intelligente. Dopodiché fa un bel ritratto di Magnani, dove però dice le cose positive di Anna. Ma capisci, un pezzo così ti attira subito, ecco. Il Montanelli invece scrittore diciamo storico non convince affatto, perché è troppo superficiale. Secondo molti, guarda che ha inventato molti episodi, cioè è rimasto storico quando disse di aver intervistato Adolf Hitler nel giorno dell'invasione della Polonia da parte della Germania, e gli fu bloccata l'intervista al Corriere della Sera. Lo disse a me perché è per certa una menzogna, perché dai, su sì, di sicuro, ma sai, successe questo, che eravamo a colazione insieme all'assassino, c'era Montanelli, c'era la Moizzi, c'ero io e la mia fidanzata, e io lo sfuculiavo sempre su Malaparte, che era stato sempre il suo avversario, e lui in quella conversazione disse che aveva intervistato tutti i grandi del suo tempo, tranne Mao e Stalin. E io gli dissi, sì, però Malaparte li ha intervistati. Ah, non è vero, si è inventato tutto, bla bla bla. Alla fine lui, ma questo lo dico per dire in fondo la freschezza dell'uomo, aveva 90 anni in quel momento, sì, siccome quello aveva intervistato Mao e Stalin, lui ha dovuto dire che aveva intervistato Hitler, cioè il massimo assoluto, insomma, ecco, capisci? E poi ci fu, siccome i cretini sono sempre in agguato, uno che gli mandò una lettera, diceva, ah, ma Fini dice questo, se è vero, allora lei non possiamo più crederle né in nulla. Bene, e lui scrisse una risposta in cui, veramente di una acrobazia linguistica formidabile, in cui riusciva a non smentirsi senza smentirmi. Stupendo. Detto questo, molti giornalisti, cioè soprattutto i grandi giornalisti, si inventano spesso delle cose, ma alle volte il verosimile è più vero del vero, e chi fa questo mestiere lo sa. Questo un po' sì, però se hai intervistato Hitler lo sai o no, cioè nel senso di Indro si inventò anche dei reportage dalla Lituania dove non era mai stato, capisci? Ma invece senti, ma questo episodio della ragazzina, stai attento, perché tu a volte adesso te ne esci con delle robe, lo so, sei incontrollato, incontrollabile. Questa storia della ragazzina comprata in Abissinia, e non ha mai, cioè non ha, sai cosa, non ha mai avuto mai la percezione di chiedere scusa, di dire effettivamente all'epoca si faceva, ma è una pratica orribile, cioè sarebbe bastato questo, no? Dire una frase, dire sì, me ne vergogno, adesso ci ripenso, me ne vergogno. E invece non ha sempre tenuto il punto su questa guarda cosa. Secondo me andare con una nera è il contrario del razzismo. No, Montanelli era ma 12 anni, cioè comprata. Montanelli era un'altra cosa, era un maschilista, non c'è dubbio. Mi ricordo una conversazione, c'era Colette Rosselli, sua moglie, che gli dice: sì, a te le donne piacciono solo in posizione orizzontale. Quella pratica era come si può dire, era la cultura di quel paese. Però era una cultura sbagliata, cioè si può dirlo adesso, no? Dire sì, uno lo riguarda al passato e dice effettivamente ho fatto così, ma ho fatto male, cioè se ci ripenso ho fatto male, se mi analizzo ho fatto male, invece no, no, prendi per esempio quando Mussolini dichiara guerra alla, alla Gran Bretagna e alla Francia. Sì. Non c'era nessuno in quella piazza. Mi ricordo che Oreste Del Buono disse: beh, va a finire, c'eravamo solo io e Montanelli. Cioè, capisci? Gli italiani, da tutti i fascisti che erano, sono diventati tutti antifascisti. Da tutti. Maschilisti che sono sempre stati e sono diventati tutti femministi. Io ho molto in sospetto i femministi perché sono perché almeno gli altri sono dichiarati, ecco. Quindi lo difendi, dici non passerai mai dalla parte di chi dice Montanelli ha sbagliato. Ma sai, è molto, è molto facile e avrebbe dovuto fare un mea culpa. Stai a sentire, Alessandro, una volta era una trasmissione che si chiamava Zapping, te la ricordi? Come no? Ecco, allora si parlava di Priebke, processo a Priebke, eccetera. Sì. Allora erano tutti naturalmente dicendo che Priebke è una cosa orribile, eccetera, eccetera. E io dissi, voglio vedere chi di voi nel 44 avrebbe resistito a un ordine di Hitler, voi che non resistete neanche a Cattaneo, che era il presidente della RAI. Beh, vabbè, finì la mia collaborazione a Zappi. Però e così fu cacciato anche dalla RAI. Sì, beh, ma intanto non è che mi abbiano mai preso, insomma. L'unica volta che avrei avuto un programma lo bruciarono prima ancora di aver visto la cosa questa pilota. Questa raccontata, sì. Va bene Massimo, io mi devo fermare che c'è il traffico, dai, ci sentiamo una prossima volta, insomma intanto ti ringrazio perché per conversare con Massimo Fini a me fa sempre piacere perché dice, ci fa ragionare, ci stuzzica sulle cose, meno male mettiamo giù, se no dice qualcosa contro Confindustria, poi dopo devo anche interrompere la collaborazione con Radio 24, scherzo, dai Massimo Fini, un grande abbraccio. Andiamo a sentire il traffico. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. 1, nessuno, 100 Milan. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Il primo devi essere tu a farti il vaccino. Il vaccino per un virus che praticamente non c'è quasi più, si può curare come una semplice influenza. Il primo devi essere tu, mi raccomando. Vaccino gratis per tutti, anche per Manera. Manera, tu per una scusa, per un'altra, la pigli sempre fest. Manera, vo fatica o no? Milan, ma chi comanda qui? Milan, chi comanda qui? Vabbè, oggi non fatica in video e in presenza, ma ha faticato ieri mandandoci delle considerazioni, Leonardo Manera. Vogliamo ascoltarle? Vai. In questi mesi trascorsi in gran parte a casa, per molte coppie è stata complicata la convivenza continua. L'amore va bene quando ci si vede una volta ogni tanto, quando normalmente non ci sono problemi, ma poi quando ci si trova a doversi confrontare magari tutti i giorni, oppure dover convivere per lungo tempo senza vie di fuga, può diventare complicato. Ho già parlato un'altra volta di quanto la durata dei rapporti dipenda dai metri quadri che si hanno a disposizione in casa. L'altro modo che sarebbe il più sano, ma anche il più difficile, è quello di saper creare complicità nella coppia. I miei genitori, ad esempio, avevano un loro modo di creare complicità tra loro, che era quello di spostare i mobili in casa e ballare il liscio. Quando vedevo i miei genitori ballare il liscio, l'idea che mi davano, oltre a quella dell'amore, era proprio quella di complicità. I miei genitori litigavano anche spesso, anzi, probabilmente i miei genitori litigavano molto più spesso di quanto non andassero d'accordo. Liti ad alto volume, anche per motivi futili, con le mie due nonne che assistevano e stavano quasi in silenzio, ma ogni tanto qua e là mettevano una parolina che bastava a gettare benzina sul fuoco. Alle mie due nonne bastava a volte solo una parola o un cenno della testa per incrementare ogni lite. Erano delle vere esperte del settore e col tempo avevano anche affinato la tecnica. Sapevano inserirsi al momento giusto con una sola parolina e accendevano una miccia esplosiva. Poi però, dopo aver litigato per tutto, di solito i miei genitori facevano pace. I primi anni del rapporto la pace probabilmente avveniva facendo l'amore, poi dopo un po' di anni mangiando, il cibo sublimava il sesso. Infine, nei momenti migliori, spostavano i mobili in soggiorno, mettevano un disco di liscio, un valzer, una mazurka e cominciavano a ballare. E alla fine tra di loro ritrovavamo la complicità. E io li guardavo ballare pensando che per me quello fosse l'amore, ma alla base di tutto c'era un'idea di complicità, di stare insieme, che forse è quello che cerchiamo tutti. A volte in amore succede, anche se è raro, ma quando vedi una coppia ridere insieme hai quell'idea di complicità. È ancora più difficile che succeda nel lavoro la complicità, dove ci sono invidie, insofferenze, incomprensioni, ingiustizie, rabbia, rancori. C'è gente che al lavoro odia profondamente i colleghi di scrivania, gode sottilmente nel vedere il collega che ha qualche problema, qualche contrattempo. Se per esempio un collega buca una gomma mentre sta andando a un appuntamento importante, il collega stronzo gode e va in bagno a stappare una bottiglia Mignon di spumante. In Italia abbiamo visto sprazzi di complicità oltre che di solidarietà nei momenti più duri del coronavirus. Ora stiamo tornando normali. Il traffico aumenta, il nervosismo sale. E allora invece pensate che bello se riuscissimo ad avere sprazzi di complicità anche nel nostro post-Covid. Sarebbe bello vedere, ad esempio, nel traffico cittadino un vigile che va da un guidatore, gli fa abbassare il finestrino e invece di dargli una multa gli dà una carezza sulla guancia e gli dice dai, che in fondo tra poco scatta il verde. Sarebbe bello vedere al centro commerciale, alla cassa, qualcuno che commenta favorevolmente la spesa fatta da qualcun altro. Hai comprato i capperi, chissà che cose buone cucini. Sarebbe bello vedere al bancone del bar qualcuno che con complicità e amore si offre di mescolarti il caffè. Invece siamo già all'Italia di prima, pace, va bene così. Dovrò accontentarmi e consolarmi ripensando ai miei genitori che ballavano il liscio. L'amaro manera, l'amaro caporetto, l'amaro manera, va bene. Eccoci qua, Leonardo Manera, grazie per queste considerazioni. Domani sarà con noi fisicamente, ma credo che più tardi lo risentiremo il buon Leonardo, perché so che aprirà le porte a un personaggio che verrà a trovarlo più tardi nella seconda parte di Uno Nessuno 100 Milan. Quando ritorneremo dopo il giornale radio a parlare di tanti altri argomenti, state con noi, chiamateci all'800 24 0024. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore? I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Uno, nessuno, 100 Milan. When there's no one left to fight. boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. Allora signori, 10-8 minuti alla seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan e ci siamo. Ringrazio per la pazienza e l'attesa Vittorio dalla provincia di Rmeux. Abbiamo Guido Scotti in regia, fa un po' come altri, gli fa gli indovinelli. Ora, Rmeux è Roma? Sì, dovrebbe essere Roma. Vittorio, buongiorno. Buongiorno Vittorio, provincia buongiorno. Di... Buongiorno dottor Milan, no non è provincia, sì. Roma città. Roma, no perché è bello, perché mi fanno i quiz, mi fanno come le vecchie targhe automobilistiche, no? Mi hanno messo prov Rm è Roma, perché Ro è Rovigo, se ricordo bene dalle vecchie targhe automobilistiche. Vabbè, comunque Vittorio da Roma, eccoci qua, prego. Allora, dottor Mia, io pensavo questo, riferendomi all'applicazione Immuni, no? Sì. Si dice che questa applicazione, scaricandola, permetterebbe l'interruzione di questa diffusione del contagio. Allora io mi chiedevo, siccome ho dei parenti in Canada e sono anni sì. che non li vedo, volevamo incontrarci e pensavo questo, se entrambi scarichiamo questa app Immuni, su un cellulare canadese non credo che italiano sì. E perché poi glielo do io, quindi staremo insieme con questi. È possibile, se naturalmente questa applicazione non dà nessun segnale, quindi nessuno dei due ha questo contagio, cioè non risulta sì, assolutamente nulla. È possibile in questo caso abbracciarsi, toccarsi, perché l'applicazione non dà però, nessun segnale. Vittorio però, scusi, non è che l'app Immuni è un medico, cioè adesso starete a posto e vi auguro tanta salute, ma se arriva dal Canada ed è un asintomatico e porta dentro di sé il virus, per esempio, non è che Immuni, cioè è un, come dire, un test, un tampone con annessa analisi sierologica che le può dire: senta, faccio una bella cosa, ma abbracciatevi, che sono tanti anni che non vi vedete. E che cavolo, Vittorio, abbracci, cos'è, suo cugino, quello che è dal Canada, e a lei, dai, ma su, vabbè, che dobbiamo dire, non lo so, mi spiace, vorrebbe l'euro risolve facile, Leonardo Manera con la sua rubrica Leo risolve facile per rispondere a questo. No, io invece volevo stuzzicare gli ascoltatori con ci sono un paio di video che hanno suscitato un po' di polemiche. Uno, vi faccio sentire l'audio, anche se non lo avete visto e non lo si contestualizza non si capisce. C'è Zaia, governatore del Veneto, che parla della vicenda drammatica di tre bambini, tre neonati morti, si pensa per un sospetto di un batterio all'interno dell'ospedale di Verona. E che cosa succede? Che mentre parla di questa cosa tragica, e poi farlo sentire Alpino... Penso che sia doveroso mettere in sicurezza i bimbi, mettere in sicurezza l'ospedale. Zaia parla di questa cosa e c'è a fianco Salvini, e questo ha suscitato molte polemiche perché continua, e si sa, una ciliegia tira l'altra, a mangiare ciliegie, assaggiava ciliegie del territorio e assaggiava la ciliegia e sputacchiava il nocciolo, assaggiava, sputacchiava, però nel frattempo annuiva quando Zaia diceva, insomma, i bambini che sono morti. Perché questa immagine, non so, vi ha suscitato, stiamo a parlare un po' di colore, vi ha suscitato qualche considerazione, qualche polemica, perché non lo so, ecco, c'era questa situazione particolare di Salvini che mangiava a raffica ciliegie mentre si parlava di una cosa drammatica. L'altra questione, voglio soprattutto sentire convocare le donne all'800240024 con la premessa mia, che sono un fan accanito di Franca Leusini. Quindi non so se mi si possa definire un leusiner, però sono un fan accanito di Franca Leusini, grande e profondo estimatore di Franca Leusini e del suo lavoro. E con questa premessa, quindi vorrei dire non toccatemi Franca Leusini, però c'è una polemica perché nell'ultima puntata di Storie Maledette domenica, parlando di un caso di violenza nei confronti di una donna, eccetera, Franca Leusini dice questo, sentiamo. brutale, violento, insomma, veramente, ecco, la menava di brutto suo marito. Da cosa aveva un'origine? Per un piatto di pasta non messo sul tavolo, perché non riuscivo magari a poter pulire, oppure perché magari non riuscivo, che ne so, anche a dargli dei soldi, oppure perché lui sospettava che io avessi amanti. Ecco, mi devi scusare Sonia, ma un quoziente di responsabilità ce l'ha anche lei, come ce l'hanno tutte le donne che al primo omaggio di uno schiaffone non mollano l'uomo che si è permesso di darglielo. A quanto risulta, in un paio di occasioni la frase, è la frase che ha creato scandalo è anche una responsabilità sua, come quella di tutte le donne che al primo schiaffone non abbandonano gli uomini. Figurati, apriti cielo, bufera, non toccatevi la Leosini. L'ho detto già tre volte. Bufera sulla frase di Franca Leosini, che oggi rilascia un'intervista alla Stampa, intervistata da Maria Corbi. Dice: non ho detto che la responsabilità è delle donne. E infatti non ha detto questo. Viva Franca Leosini. Era un contesto colloquiale dove ho espresso un pensiero che corre sul filo della logica e soprattutto che è da considerare un consiglio, non certo un rimprovero. E cioè è sbagliato, dice Franca Leosini, prendere alla lettera un'affermazione che è figurativa e dove non c'è un giudizio, ma un consiglio che mi sembra di minima prudenza. Mi dispiace tanto essere fraintesa, con la mia vita, le mie battaglie, ho dimostrato come la penso e che sono sempre dalla parte delle donne. E aggiunge: mi sembra incredibile che si possa supporre il contrario. E questo io lo sottoscrivo al 100%, però io sono uomo, si dirà, è facile. È interessante però questo dibattito che è nato, le polemiche. Franca Leosini ora viene contestata dalle associazioni femministe, leggo dal titolo della Stampa. Che ne pensate? Si può parlare anche di questo, di questa polemica? Voi chiamateci all'800240024. Mi interesserebbe soprattutto il parere di qualche donna, visto che spesso chiamano soprattutto uomini. In questo caso, visto che sono coinvolte più le donne in questo tipo di dibattito, la frase però è stata pronunciata da una grandissima giornalista, Franca Leosini. Grande, lunga vita alla Leosini, e sono un fan della Leosini, l'ho già detto. So, Guido Scotti, l'ho già detto questa cosa, guardo in regia in maniera virtuale, visto che non lo posso vedere, annuisce, dice che l'ho già detto. Bene, allora, va bene, viva Franca Leosini, io sto con lei, ma vorrei sapere il vostro parere. Andiamo a sentire il traffico. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni, aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. 1, nessuno, 100 Milan. So I'm showing Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. Cioè, praticamente dopo l'intervista che avete fatto al signor Fini, adesso mi avete tolto tutti i dubbi. Cioè, io non capisco cos'è che ha fatto di buono questo signor Montanelli per avere una statua. Va bene, alle 10:19 minuti siamo qui, cari ascoltatori. Allora, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. Ora io voglio dare il buongiorno a un sindaco, posso chiamare il sindaco di frontiera? Sì, penso che sindaco di frontiera si possa definire così, Gaetano Scullino, sindaco di Ventimiglia, che torna con noi, buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie a Radio 24, grazie, torno perché... con voi. Torna con noi per un problema da sindaco che non è quello per cui molti sindaci dicono falliamo, stiamo per fallire, probabilmente anche, no, so, anche Ventimiglia ha questo, no, a questo non problema. Falliamo. Noi resistere. Però c'è un problema perché da quando si sono aperte le frontiere, nel senso che si può viaggiare liberamente, almeno per i cittadini dell'Unione Europea, ovviamente all'interno dell'Unione Europea, si è riproposto al sindaco di Ventimiglia il problema di alcuni migranti che vogliono andare in Francia, vecchia questione che il coronavirus aveva anestetizzato e ora si è riproposta di colpo, così vale, sì, a dire sindaco? In effetti si è riproposta nel giro di 10 giorni, c'era una situazione di calma apparente, adesso ci sono circa 500 persone che cercano di attraversare la frontiera con la Francia con scarsissime probabilità, perché noi abbiamo nel comune 6 varici di frontiera, tutti naturalmente con la polizia, le forze dell'ordine, tutto quanto, soprattutto la parte francese, quindi non passa nessuno, quindi la frontiera è proprio ermeticamente chiusa e quindi la gente viene restituita tutte le mattine, quelli che riescono a passare dalle montagne arrivano a Nizza, li vengono ripresi e tutte le mattine 40-50 vengono restituiti. Mi scusi sindaco, ma una curiosità che lei sappia, cioè queste persone durante il periodo di chiusura dove erano un po', immagino, sparpagliate nella zona? No, per quanto mio in Liguria non ce n'era, neanche a Ventimiglia, noi monitoriamo la nostra città con particolare attenzione, anche perché il problema, noi siamo a 8 km da Sanremo non lo ha il problema. Nel senso, certo, che noi abbiamo, se arriva un barcone in Sicilia, poi sbarca e tutto quanto, dopo 3 giorni arriva, capito? Se scappa qualcuno, esce qualcuno da un campo. Sì, probabilmente erano a Genova piuttosto che a Milano, nelle grandi città. Non giravano, perché lei sa benissimo che fino a 10 giorni fa non si poteva attraversare le regioni. I piemontesi non possono venire qui, o i milanesi o i campani. Eravamo tutti quanti in ogni regione, eravamo un po' bloccati. Con questa possibilità è chiaro che i treni si riempiono, quindi parte un treno da Taranto, da Reggio Calabria, dopo 2 giorni sono qui con la speranza di attraversare il confine. Sì, diciamo con la speranza di ripristinare quella situazione che cercavano di forzare qualche mese fa. Qualche mese fa, certo. Ed è il problema che noi stiamo affrontando in questo periodo. Noi sono due. Il primo problema è che noi abbiamo qua un centro di transito che in alcuni periodi dell'anno, negli anni che furono, quando c'era proprio l'invasione, ospitava da 400-500 persone, quindi davamo giustamente un'accoglienza anche su una certa solidarietà, nel senso che c'è anche famiglie con minori e quindi noi non è che li abbandoniamo quando arrivano. Diamo un vitto, le diamo l'alloggio, le mettiamo in condizione di essere aiutati, perché poi alla fin fine sono povera gente che vengono qui per cercare di attraversare la frontiera e andare in un paese d'Europa a cercare di poter vivere tranquillamente. Adesso si è aggiunta anche la rotta balcanica e quindi il numero è notevolmente aumentato, con il problema che questo centro di transito è chiuso. Perché lei sa che siamo appena usciti da un'emergenza sanitaria. Sì, sì, quindi COVID. Gli operatori sanitari, volontari non possono lavorare, quindi arrivano in questo campo, non possono passare la frontiera, cosa fanno? In questo campo, fatalità, c'è stati alcuni casi di Covid, il prefetto l'ha chiuso perché per quanto riguarda il discorso uno deve fare attenzione. Quindi non siamo nella condizione neanche di assisterli, nel senso che non siamo nella condizione neanche di dargli un vitto, un alloggio, una doccia, un pasto caldo, roba, perché il campo è chiuso, certo, per Covid. Se questo aggiunge che tutta la città i giardini pubblici, le sponde dei fiumi, sotto i ponti, nei portoni, nella stazione, nelle spiagge, questa povera gente rimane lì. Ma scusi, questi 500, quindi queste 500 persone cosa fanno? Bivaccano dove riescono? Bivaccano dove riescono, ci abbiamo un po' di solidarietà, perché i vietnamesi hanno un senso di solidarietà spiccata, vengono aiutati, poi c'è la Caritas che certamente gli dà un sacchetto. Poi c'è il centro d'ascolto, c'è il Lion Club, c'è la Croce Rossa, c'è la Croce Verde, ossia noi abbiamo qui una certa organizzazione, siamo abituati, la Protezione Civile cercherà di aiutare questa povera gente che poi rimane lì. Sì, però lei, come dire, lancia questa allarme. So che però ha incontrato anche il prefetto di recente dire che facciamo, cioè che facciamo qui a Ventimiglia adesso, oltre alla situazione solita, si unisce l'emergenza coronavirus che non permette di aprire strutture per assistere queste persone. Certo, tra l'altro queste persone arrivano da tutte le parti d'Italia e non hanno l'abitudine, sì. Io qui ho l'ordinanza ancora di girare con le mascherine, perché siamo ancora, non è che tutto finito, dobbiamo fare attenzione. Chiaro. Al ritorno, e queste persone vanno nei negozi, insomma, vabbè, ma le istituzioni cosa le hanno detto, sindaco, il prefetto, cioè quindi il rappresentante del Ministero dell'Interno, cosa le ha detto? Lui dice che il centro lui non lo riapre perché ha ancora questi casi in quarantena, roba del genere, che in un certo momento le forze dell'ordine stanno facendo un ottimo lavoro di controllo, perché queste povera gente sono anche soggette a malintenzionati, nel senso persone che gli promette che riescono a farli passare, ci sono i passeur, il problema è anche un po' di malavita, insomma, di organizzare, nel senso che sono i passeur, riprendono quei pochi soldi per attraversare, insomma è un momento di particolare difficoltà della mia città. La mia città vive di commercio e di turismo e gli scampi con la Francia, col Principato di Monaco. La città adesso è invasa, perché alla sera, insomma, tutte le panchine, i giardini, i fiumi, le spiagge, tutto quanto, questa povera gente che non ha più una possibilità di un ricovero all'interno di un campo di raccolta, quanti di transito, quindi immagini anche sotto il profilo sanitario, igienico sanitario, quello che stiamo passando, quello che stiamo vivendo. Voglio dire, va bene, e lei fa questa denuncia, l'ha fatta a giornali locali, la fa qui a Radio 24, cosa si può fare? Perché il prefetto le ha detto che lei, tanto il centro lui non lo riapre, perché il centro cosa non si può fare? Riapre, non ci sono le condizioni. Intanto bisogna bloccare gli arrivi, dire proprio ai campi di raccolta in Sicilia, in Puglia, dove sono, che le frontiere non si passa in Francia, non si passa in Francia. Che rimangono qua, fanno magari 2 o 3 giorni di premi o cosa, vengono qui e poi povera gente non hanno sicuramente l'assistenza che hanno nei campi. Ma tanto non pensano, credo, di passare presentandosi alla dogana, pensano di passare di straforo in qualche modo, come lei ci ha raccontato, cercando l'avventura, cercando la disperazione. Non so se questo consiglio arriverà a produrre effetti positivi. Bisogna fermarli già le prefetture di Genova, di La Spezia, delle cose, devono già fermarli che non arrivano qui. E quando arrivano qua veramente non abbiamo la possibilità di accogliere, perché il centro è chiuso. E quindi facciamo, quando si parla che bisogna avere la solidarietà, che noi sicuramente, o l'accoglienza, che noi sicuramente non abbiamo lo spirito, roba del genere, non è una falsa solidarietà, è una solidarietà da divano, è facile parlare sul divano, però poi bisogna essere qui in trincea a cercare di gestire una situazione di massima emergenza, di massima difficoltà, anche perché noi tutte le nostre risorse sono per assistere i minori, ci sono le chiese, i miei parici che sono 7, hanno le chiese piene. Ma anche perché era già difficile la situazione prima con i centri aperti, i centri dipendenti al Ministero dell'Interno, figurarsi adesso che sono chiusi. Prima con i centri aperti a me non ci andava, le forze dell'ordine controllavano, gli davamo l'assistenza che giustamente bisogna dare, però tantomeno la città era abbastanza controllata. Adesso in effetti stiamo attraversando un periodo che, tra l'altro, il mio grido di dolore momentaneo è perché ancora i numeri sono 2, 3, massimo 400, ma se continuano ad arrivare e di là non riescono a passare, immagini cosa succede in piena certo. estate. Quindi, questo è il mio problema. Sindaco, allora, chiaro, lei, facciamo così, questa denuncia lei l'ha fatta e noi, sapete, siamo sempre attenti quando vuole tornare, ci sentiremo magari nei prossimi giorni. Allora, a Ventimiglia il sindaco ci sta dicendo che le strutture che sono dipendenti dal Ministero dell'Interno non possono essere riaperte, quindi le frontiere sono assolutamente chiuse per i migranti che tentano di andare in Francia. L'appello, dice il sindaco, è a tutti coloro che gestiscono anche i centri, sono a contratti con i migranti, dire non andate a Ventimiglia con la speranza di andare in Francia, perché da lì non si passa. E lì si è anche bloccati e scarsamente assistiti, se non per volontariato delle varie associazioni, parrocchie, Caritas, Croce Rossa, che ci ha citato, altrimenti si rimane così un po' in balia di se stessi. È una situazione sicuramente difficile, vedremo nei prossimi giorni se si sbloccherà, che l'unico modo per sbloccarla, se ho capito, è che non arrivino altre persone. Questo è il modo migliore. Intanto andiamo a sentire le informazioni sulla borsa, poi rientriamo con altri ospiti, con Leonardo Manera virtuale, che non è qui fisicamente e in video, ma verrà sento già che alla porta qualcuno sta bussando e credo che un personaggio entrerà in casa sua, e va bene, tutto questo dopo la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Guardi che Salvini così ieri sera si è scusato, ma dicevo lì ho mangiato ste tre ciliegie, ma pensavo giustamente di quel che si parlava. Gli hanno proposte, perché sono del posto, così non so se è il caso di fare scemenze su questa cosa. Gli unici intelligenti in Europa che non controllano i propri confini. Siamo proprio i migliori, i numeri uno, veramente. Milan, buongiorno, grande Leusini, ha detto una verità, io ho seguito la puntata tutta nei minimi particolari, non ho trovato nulla di offensivo. Ma la Leusini ha detto che doveva lasciarlo al primo ceffone, giusto, non ha detto niente di strano. Ah, infatti anch'io la penso così, ma da uomo è facile. Sulla questione Salvini anch'io ho detto che c'è stata una grande polemica, ma è stata una cosa un po' così, forse inopportuna, ma sono quelle cose infatti da non montare. Vorrei sentire però Zoe dalla provincia di Bologna, credo sul tema Leusini, che ha detto a questa donna condannata perché mandante di un omicidio del marito, è anche un po' colpa sua perché doveva andarsene al primo schiaffone. Zoe, buongiorno. Buongiorno, volevo dire solo la mia testimonianza a favore della Leusini. 5 anni fa ho divorziato da mio marito per il primo ceffone che ho preso, sono stata da tutti criticata, parenti e amici. Vorrei sapere chi critica la signora Leusini per quello che ha detto e tutti i miei conoscenti che hanno criticato me. A quanti ceffoni scatta il permesso di abbandonare il marito? Perché se certo, siamo stati criticati tutti, a quanti ceffoni è legittimato abbandonarlo, divorziare o quant'altro? È una domanda, è chiaro che questa domanda retorica, no, questa domanda retorica, in realtà uno è legittimata a lasciarlo sempre. Lei dice io al primo l'ho fatto, e allora giustamente Zoe dice mi dite qual è il limite di sopportabilità del numero dei ceffoni prima di andarsene. Beh, interessante anche come replica. Comunque io ho chiamato Maurizio Bianconi, non per questo, anche se è un avvocato Maurizio Bianconi, ma niente sa di questa cosa, forse della polemica su Franca Leusini. Maurizio, come stai? Bene, stai bene, voi? Bene, tutto a posto, no? C'è questa polemica. Questa cosa degli schiaffi, c'ho un piccolo aneddoto. Quando ero alla Camera era stato fatto un sopruso, dissi testualmente, succede come quello che dico alle mie clienti allo studio, che per ogni marito che picchia la moglie c'è quasi sempre una moglie che si fa picchiare, che è un po' quello che ha detto la Leusini. attimi. Sì, che però detto da un uomo, detto da un uomo, capisci, di, cioè se lo dice una donna, io non dico lo accetto di più, però detto da un uomo sembra di è facile, però parla l'uomo, no? La mia esperienza professionale dice che bisognerebbe andare lasciando fare i violenti, appena uno si accorge che non è violento bisognerebbe lasciarlo fare. Ma detto questo, lo sai quale fu la risposta della sinistra unita? Avevo fatto una operazione sessista e antifemminista e volevano che la Boldrini mi censurasse. Pensa che la Boldrini, che non è un mostro di intelligenza su queste cose, non la offendo, mi dette ragione e mi dissero che non avevano capito niente sul mio paragone. Io penso che la violenza degli uomini sia talvolta o molto spesso come posso dire, permessa da una sorta di cultura gregaria che ha la donna, in cui insomma l'uomo, se è uomo, un paio di schiaffoni li potrebbe anche dare. Ecco, questo è sbagliatissimo. Sì, è sbagliatissimo, magari gregaria perché è in una posizione di debolezza, di difficoltà, magari economicamente non indipendente, magari ha i figli, eccetera, eccetera. Sì, è così. Comunque, senti, c'è sempre questa complicità coatta o meno della donna, quasi sempre, sulla violenza degli uomini. Vabbè, ti chiedo questo, tu che sei un uomo navigato di politica, anche se non frequenti più il Parlamento, ma che succede al governo? Mamma, qualche giornale oggi titola il governo rotola, vabbè, Libero. Si dice che quando c'è una crisi di governo si capisce già da 3-4 mesi prima, per esempio gli uffici di gabinetto lo sanno già. Allora, che succede? Lo sanno già o non lo sanno? Io penso che concorra alcuni elementi. Cerco di mettere sinteticamente in ordine. Il primo elemento è che Conte è il viatico ideale per un governo tecnico. Cioè, dopo tutto il disastro di Conte ci vuole un Monti, ci vuole un Draghi, e quindi questo tenderebbe a farlo durare un po' di più, ma non molto. La seconda questione importante che segna praticamente il destino del governo di Conte è il fatto che i 5 Stelle sono sufficientemente in crisi, ma nessuno pensa di dover dedicare la resurrezione del movimento a Conte. Quindi prima si fa fuori Conte e meglio è. Probabilmente il movimento si riavrà soltanto quando assumerà la sua fisionomia barricadera con Di Battista, è quella l'unica sopravvivenza consentita a 5 Stelle, questo secondo me. Terzo punto, anche il PD ha interesse a non durarla tanto, perché in effetti lo strapotere di Conte diventa pericoloso anche per il PD. Quarto elemento che nessuno dice è che in fondo è nei patti, nelle promesse fatte a Conte da chi lo manovra, Ma chi lo manovra? Ma che si capisce? A parte che non si sente male, si sente un po' male, sta attaccato al telefono. Ma chi lo manovra? Seguimi bene. Parodi ha fatto quello che alcuni volevano e ha fatto il presidente di Commissione Europea e ha avuto tutto quello che ha voluto. Ciampi ha fatto quello che qualcuno voleva e da direttore della Banca d'Italia è diventato ministro, presidente del Consiglio e presidente della Repubblica. Posso continuare, ce ne sono diversi che hanno fatto tutto. E a Filistessa erano stati promessi posti magnifici. A Conte gli è stato detto, come ha scritto Verderami, perché Verderami l'ha scritto questo, guarda, fai, portaci un pochino più in là, perché poi noi ti facciamo fare il presidente della Repubblica. E lui, che è un po' la sogna da Napoleone, questa cosa in testa ce l'ha. Quindi il governo Conte è un governo a termine, ma è destinato a sfociare non nelle elezioni, ma come dice Giorgetti, che è uno dei complici di questa faccenda, a sfociare in un governo di tecnici. Va bene, vediamo. Aspetta un attimo, devo andare al traffico, perché anche perché il cellulare mi dicono si sente. Io lo sentivo benino. Ma ti dobbiamo comprare un cellulare, porcaccia la miseria. Allora, mettiamo in conto, direttore personale, comprare un cellulare per Maurizio Bianconi, così quanto costa? 200-300 euro, oppure te lo sistemiamo, se ci mandi il cellulare te lo sistemiamo e si sente meglio. Vabbè, dai, dobbiamo andare al traffico. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10:48 minuti, ci siamo, c'è Beatrice che ci chiama da Como. Buongiorno Beatrice. Buongiorno Alessandro. Sì, chiamo Eccoci. Da Como in quanto volontaria presso un'associazione che si chiama Como Accoglie, che si occupa per l'appunto di senza tetto e di migranti. E nel sentire la testimonianza del sindaco di Ventimiglia mi sono sentita molto chiamata in causa, in quanto a Como viviamo una situazione simile, è una città di frontiera, è una città sì. dove le istituzioni hanno completamente abbandonato queste persone, questi ragazzi che hanno delle storie molto complesse alle loro spalle, italiani e non, e per le quali attraverso Caritas siamo riusciti a dare supporto, dando accoglienza notturna, dei dormitori dove riuscivamo anche a mantenere i ragazzi durante l'emergenza Covid. Dall'8 di giugno i centri sono chiusi, non avremo quindi ci sono 70 persone in giro per la città sì. senza nessun tipo di controllo, ma neanche sanitario. E non avremo neanche più la possibilità di consegnare le coperte, di dare un minimo di ristoro serale o mattiniero, insomma c'è un abbandono totale, un non voler vedere queste situazioni drammatiche che vengono lasciate al volontariato. Però il volontariato non può far tutto, ci vogliono anche le istituzioni e ci vuole attenzione per queste persone. Insomma, Beatrice, lei ci conferma da Como, altra città di frontiera con la Svizzera, che questa è la situazione. Insomma, Ventimiglia, Como, e ci saranno anche altre città, immagino nel nord-est. Grazie per questa testimonianza che conferma che c'è un problema che qualcuno dovrebbe vedere con maggiore attenzione. Allora, però so che adesso è venuta a trovare il buon Leonardo un personaggio che amiamo moltissimo farlo, cioè così stringo un pochino i denti, perché è arrivato periodo di tasse al Ragionier Crosta. Buongiorno a tutti, sono il Ragionier Crosta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate, l'agenzia servizio dei cittadini onesti, perché per tutti gli altri, per i cittadini disonesti, d'ora in avanti ci sarà da preoccuparsi. Anzi, ci sarà da preoccuparsi anche per i cittadini onesti, perché in verità nessuno è onesto fino in fondo. E scava, c'è sempre qualcosa da contestare, qualche cartella esattoriale da inviare. Sono venuto qui a Radio 24 per rendere noto a tutti gli ascoltatori che sta per entrare in vigore il nuovo redditometro. Verremo a indagare nelle vostre case lussuose, piene di beni, gioielli, piene di sforzo nascosto. E in base a quello che possedete ipotizzeremo un reddito in base al quale dovrete pagare le tasse. Le tasse sono il sale della vita. Oh, le tasse, che mondo sarebbe senza tasse? Un mondo felice per voi, ma noi non amiamo un mondo felice, amiamo un mondo dove tutti lavorano almeno 6 mesi all'anno per pagare le tasse. Ma vediamo come funziona il nuovo redditometro. Per esempio, possedete un profilattico? Reddito previsto almeno 30.000 euro, perché chi è privo di mezzi non spende i soldi in profilattici. Per risparmiare fa l'amore nudo, anzi non fa l'amore, fa l'amore è un lusso, bisogna invitare a cena la compagna e spendere, farsi la doccia, spendere in acqua calda, fare regali a San Valentino e spendere. Solo i ricchi possono essere fidanzati e per strada ci sono molte tentazioni. In giro per strada, nei locali, è pieno di femmine lascive che spingono gli uomini a commettere atti impuri. Io fortunatamente queste femmine non le ho mai incontrate. morte, ma so che esistono e per non essere indotto in tentazione assumo medicinali per ottenere la castrazione chimica. Sono castrato e me ne vanto, quindi se possedete un profilattico, reddito presunto almeno 30.000 euro, possedete un libro di cucina di carne? Ah, ti piace mangiare la carne? Bravo, continua a mangiare i tuoi filetti, le tue tagliate, le tue bourguignon. Oh, oh, la bourguignon. Mangiali pure, che poi arriviamo noi con le nostre cartelle esattoriali. Reddito previsto 50.000 euro. Non vuoi essere tassato? Mangia solo insalata, che fa bene e costa poco. Oppure vai nei campi a raccogliere i datteri. Oh, oh, oh, i datteri. Possedete un libro di cucina di pesce? Reddito previsto 70.000 euro. Il pesce è caro, vuoi mangiare il branzino, la spigola, l'orata, il rombo e il pesce San Pietro? E allora paga la tua parte di tasse. Le tasse sono la lisca che devi ingoiare ogni volta che mangi il tuo bel pesciolino. E io sono quello che con tutta tranquillità, serenamente, ti fa arrivare la lisca fino in fondo alla gola. Oppure sei vegano? Reddito previsto 80.000 euro, perché di questi tempi due zucchine saltate costano più di un chilo di pesce. E poi i vegani sono così insistenti, così intransigenti, che meritano di essere spremuti come arance succose. Meritano di pagare. Per finire, possiedi una friggitrice? Reddito previsto 90.000 euro. Chi mangia fritti sa che prima o poi dovrà sottoporsi a cure dimagranti e disintossicanti e quindi spendere soldi da un dietologo. Io, se al ristorante vedo qualcuno che mangia un fritto, mi informo su lui, lo faccio seguire perché so che è un reddito nascosto. Oh, oh, oh, la friggitrice! Ma non preoccupatevi, state tranquilli che noi dell'Agenzia delle Entrate prima o poi arriviamo. Mamma mia, ragazzi, che inquietudine il ragionier Crosta, e si sa che prima o poi arrivano, più prima che poi. Allora, mi spiace per Silvia, provincia di Viterbo, ma sono proprio in chiusura, come sentite la sigla, non ce la facciamo sul tema, credo Leosini, se vuole domani riprendiamo in qualche modo rilanciando il tema, tanto noi qua abbiamo un flusso di informazioni, ogni giorno riprendiamo quello che abbiamo tralasciato il giorno prima e riannodiamo i fili. Dai, ci troviamo domani, state con noi, state su Radio 24, a domani. Uno, nessuno.